Quando sono in giro, giro tra i locali, giro canne grandi tipo cannocchiali. Corro verso loro come Pistorius, quando dormo penso a loro come Pistorius. Quando sono in giro, giro tra i locali, giro canne grandi tipo cannocchiali. Corro verso loro come Pistorius, quando dormo penso a loro come Pistorius. Guardami partire il razzo fra subito dopo lo sparo, paro. Tra pezzi di merda e un sacco di vari che corro lo slalom, slalom. Non leggo il giornale, non penso di essere equo e normale. Le guardie dietro con 3 grammi in tasca faccio 100 metri che è record mondiale, record mondiale. Blade Runner, viaggio con motore di 6 canne. I miei occhi rossi fra nei banner, i tuoi video li bastano sul gay channel. Flow senza ricetta, le sinapsi pensano in fretta, fretta. Adrenalina, stamina, rabbia, 4 colpi in presa diretta. Metto mezzo grammo solo nella testa, testa. Poi un altro paio in quella che resta, resta. Poi lanciando senza aprire la finestra, finestra. Vedi i koala perché in tasca una foresta. Corro veloce, perdi il fuoco. Salto 3 metri, prendo il bonus. La chiudo e poi l'accendo. Fumo fino a quando le gambe non le sento. Pistorius, vinco la staffetta. Ogni quarto ti affetta. Torna a scrivere la storia dell'hip hop in cameretta. Quando sono in giro, giro tra i locali, giro canne grandi tipo cannocchiali. Corro verso loro come Pistorius, quando dormo penso a loro come Pistorius. Quando sono in giro, giro tra i locali, giro canne grandi tipo cannocchiali. Corro verso loro come Pistorius, quando dormo penso a loro come Pistorius. Il pezzo rime poi le collego, con le pippe neanche completo. Sembri vecchio, fai testi retro, resti a secco fra resti dietro. Io penso a loro, non penso a loro, fra prendo il volo. Tempi record, mezzo uomo, mezzo carbonio. Pistorius, Terminator. Arti artificiali, M alla bomba, artificieri. Sempre più fatti nei parti ufficiali, è la Madonna, santi nei cieli. Su di me fatti mai veritieri, tanti misteri. Ordino al banco un po' tanti bicchieri, mi sveglio al banco con santi licheri. Ehi, ehi, l'arto non lo piego, scendo in pista, vado. Dunque altro, più di un metro, dietro, distaccato. Prima disco ripagato, dopo distappato. Non ti piace questa merda, frase di dato. Cyborg pazzo esultante, fuoco, 4 colpi sul target. Dopo cago i soldi e sucate. Sulle casse esplodi, transistor, tipo negli androidi. Impazzisco, rabbia gli asteroidi, flow che taglia gli asteroidi. Quando sono in giro, giro tra i locali, giro canne grandi tipo cannocchiali. Corro verso loro come Pistorius, quando dormo penso a loro come Pistorius. Quando sono in giro,